faccia la realtà. Ciò che vedi è solo crudeltà. Ti affacci alla finestra e la città è tranquilla, ma se poi alzi lo sguardo fuori c'è una guerra. Cominci a chiederti dove eri in questo tempo, ma la tua infanzia non passa in un momento. È solo un brivido di un gran lancio nel vuoto, così capisci che la vita non è un gioco. Volavano in alto sogni e desideri, ma non c'è tutto, non è più lo stesso. Ora cadono come bombe. Non è delle persone, è una virtù che tende solo a scomparire, fino a chiedersi che cosa vuol dire. Che cosa vuol dire? E se per te la fame è solo una visione, una visione. E se la guerra non porta distruzione, distruzione. Allora apri gli occhi e guarda le persone. Quella che hanno non è solo un'opinione.